Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Sequestro Abu Omar, il giudice, il Sismi sapeva, Ciancimino al processo Mori, Provenzano aveva l'immunità. Termini Imerese, ripresa la produzione, mutui, la moratoria scatta da oggi. Berlusconi arriva in Israele, mezzo governo col Cavaliere. Italia al gelo, temperature ancora giù. E buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Dunque, in primo piano a Milano, Abu Omar venne rapito con compiacenza o conoscenza del Sismi. Oggi sono state diffuse le motivazioni della sentenza sul sequestro. Partiamo da qui, dal Tribunale di Milano, in diretta con Raffaella Calandra. Raffaella. Sì, buongiorno, usa proprio queste parole, c'è stata una conoscenza se non una compiacenza delle autorità nazionali. Il giudice Oscar Maggi ricostruisce le responsabilità degli agenti CIA nel sequestro dell'ex imam Abu Omar e mette nero su bianco che l'esistenza di una organizzazione sul territorio italiano delle massime autorità dell'intelligence CIA lascia presumere, scrive, il nulla osta degli 007 nostrani. In 205 pagine il giudice ricorda come non sia stato possibile approfondire le evenienze pur esistenti, specifica, sul ruolo della Sismi per l'opposizione del segreto di Stato, segreto opposto sia dal governo Prodi che da quello Berlusconi e confermato in parte dalla Consulta, facendo calare, nota ancora Maggi, un sipario nero sulle eventuali responsabilità del Sismi. Per questo il giudice non manca di esprimere forte preoccupazione per il verdetto della Corte Costituzionale, che considera un paradosso logico e giuridico. Lo scorso 4 novembre, lo ricordiamo, per il sequestro sono stati condannati 14 agenti CIA, mentre i vertici del Sismi, a cominciare da Pollari e Mancini, per loro è stato dichiarato il non luogo a procedere per l'impossibilità di indagare. E il segreto di Stato è stato opposto da Mancini anche nell'altro procedimento in cui è imputato, quello cioè per i dossier illegali Telecom. Si stanno definendo i patteggiamenti e questa mattina anche quello delle due società, Telecom e Pirelli, accusate per la legge 231 sulla responsabilità amministrativa delle imprese, si è unito con l'accordo della procura a pagare circa 7 milioni di euro agli altri patteggiamenti, a cominciare da quello dell'ex dominus della sicurezza Tavaroli. Tutti comunque verranno definiti il 29 marzo. Anna Rita. Raffaella, poi oggi c'è stata anche la prima udienza del processo per la tentata scalata BNL da parte di Unipol. Quali sono le novità? Sì, ora mi diverto io. Arriva al terzo piano del palazzo con un cappello in testa e un sorriso sul viso Giovanni Consorte alla prima udienza del processo per l'attentata OPA alla BNL. 5 anni dopo l'estate rovente delle scalate bancarie è cominciato infatti anche questo procedimento contro gli ex vertici Unipol, accusati di essere stati registi di un patto occulto per rastrellare il 51% della Banca Nazionale del Lavoro a scapito degli spagnoli del Banco di Bilbao, che avevano lanciato un'offerta pubblica di scambio sullo stesso istituto. Era un grande progetto imprenditoriale. Dopo 70 anni, ci ha detto Consorte in un'intervista, il mondo cooperativo si affacciava alla finanza. Ma per Consorte a bloccare il progetto ci furono anche i vertici del centro-sinistra impegnati allora nella nascita del Partito Democratico. Anche loro risultano nella lista dei testimoni presentata da Consorte, che mira a ricostruire le eventuali pressioni esercitate sulla Banca d'Italia, che dopo 6 mesi negò l'autorizzazione all'OPA. Il processo è stato aggiornato al 18 marzo per la costituzione delle parti civili in un dribbling tra gli impegni degli avvocati e l'eventuale approvazione del processo breve, che sancirebbe già a questo maggio la fine anche di questo procedimento. Per ora è tutto. Grazie Raffaella Calandra, sin qui dunque a Milano, ma da Palermo arrivano altre rivelazioni importanti. Un vero e proprio fiume in piena, Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco di Palermo, deponendo al processo al generale dei Carabinieri Mario Mori, accusato di favoreggiamento. Mio padre mi disse che Bernardo Provenzano godeva di una sorta di immunità territoriale, per cui anche da latitante poteva muoversi liberamente. Questo ha detto Massimo Ciancimino, aggiungendo che nel 90 il padre si fece annullare l'ordine di carcerazione grazie ai rapporti che aveva in Cassazione. Quanto agli interessi economici del padre, a un certo punto ha detto detto che era interessato ad investimenti lontano da Palermo. Tra i nuovi investimenti le Olimpiadi di Montreal, ma anche investimenti alla periferia di Milano. E il fronte giustizia resta dunque molto molto caldo. Partiamo dalle ricette della politica in diretta con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buona giornata. Sì, il legittimo impedimento approderà nell'aula di Montecitorio domani, ma sul provvedimento il premier Silvio Berlusconi teme i franchi tiratori. Su 150 emendamenti l'opposizione potrebbe chiedere infatti il voto segreto, perché il testo riguarda le libertà personali e ricade tra quelli che possono eludere il voto palese. Alcune indiscrezioni di giorni scorsi parlano di una lettera spedita dai capigruppo PDL Cicchitto e Bonino a tutti i parlamentari azzurri per garantire un'ampia presenza durante le votazioni a Montecitorio. Stamattina Pier Ferdinando Casini rivela che l'UDC è disposto a votare a favore solo se la norma riguarderà il Presidente del Consiglio e non ci saranno vagoni, dice Casini, per altri ministri. Altrimenti l'UDC potrebbe astenersi, ma aspetta di vedere gli emendamenti al testo. Tutto ciò quando ancora risuonano le accuse di Silvio Berlusconi. Contro di me aggressioni mai fiste, dice il Premier. Sono stata vittima di una campagna stampa calunniosa e aggressiva. E per il momento qui da Roma è tutto, poi studio. Grazie Elisabetta. E l'Associazione Nazionale Magistrati replica al Ministro della Giustizia Alfano. Inaugurando l'anno giudiziario, il guardasigilli aveva detto che d'ora in poi i suoi interlocutori non saranno più i rappresentanti del sindacato delle toghe, ma solo i responsabili dei vari uffici giudiziari. Il dialogo con noi è ineludibile, risponde l'ANM. Al microfono di Andrea Viali, il segretario dell'associazione, Giuseppe Cascini. Questo tentativo di dividere la magistratura, di rivolgersi solo ai dirigenti degli uffici, senza considerare che la stragrande maggioranza dei dirigenti degli uffici aderisce all'associazione ed è d'accordo con la protesta dell'associazione, non ha prospettive per rendere migliore il confronto e il dialogo. Io invece spero che si comprendano le ragioni della protesta e del disagio della magistratura, si colga il forte messaggio che i magistrati hanno dovuto lanciare della necessità di riforme vere per una giustizia che funzioni, che si rinunci a iniziative legislative che non hanno possibilità di migliorare il sistema giudiziario e che sono pensate esclusivamente con riferimento a singole vicende, che cessi un clima di aggressione e di insulto nei confronti dei magistrati e che si lavori tutti insieme per l'unico scopo che merita l'impegno sia della politica che della magistratura associata, cioè una giustizia che funzioni. Il giudizio sulle leggi allo studio si riferisce anche al legittimo impedimento? Guardi, noi consideriamo la riforma approvata dal Senato del processo breve molto sbagliata e gravemente distruttiva del sistema penale. Il legittimo impedimento è invece una mini riforma che non aiuta certamente la giustizia a funzionare meglio e che bisognerà valutare nei suoi aspetti di compatibilità con la Costituzione solo quando sarà approvata nei suoi dettagli. Giustizia dunque, ma in primo piano resta sempre, anche purtroppo, l'emergenza lavoro. È una settimana importante. In diretta Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. La crisi economica e i suoi effetti sull'occupazione hanno lasciato gli sterili numeri delle statistiche per arrivare in modo molto forte sul tavolo del governo e delle parti sociali. In questa settimana si cercherà infatti di dare una risposta alle molte emergenze. Si comincia oggi con il tavolo su Eutelia e lo sciopero di Eridania. Domani la riunione su Alcoa e l'incontro dei sindacati della Vinils con il prefetto di Venezia. Mercoledì lo sciopero Fiat e infine venerdì il tavolo dedicato a Termini Imerese. Nello stabilimento siciliano intanto gli operai sono tornati al lavoro dopo che l'azienda nei giorni scorsi aveva sospeso la produzione a causa delle proteste che avevano bloccato l'ingresso delle merci nello stabilimento. Due dati interessanti intanto dall'Istat: nel 2009 le retribuzioni sono cresciute più dell'inflazione, nel periodo invece 2004-2008 l'occupazione è aumentata per larga parte grazie all'assunzione di lavoratori stranieri, ben il 77% del totale. Anna Rita. Vincenzo, poi c'è un'altra notizia buona per le famiglie, perché scatta l'accordo per il congelamento di 12 mesi per le rate dei mutui. Sì, è così, avvia oggi l'annunciata moratoria sui mutui per le famiglie in difficoltà. L'intesa tra ABI e Associazione dei Consumatori prevede la sospensione delle rate sui prestiti per 12 mesi. La domanda va presentata allo sportello della propria banca. Il provvedimento, che interesserà fino a 130.000 famiglie, dovrebbe valere 8 miliardi di euro. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo, noi torniamo alla politica con i dolori del PD a Bologna, dove le pressioni su Prodi si fanno più insistenti, e da Napoli, dove la candidatura di De Luca non mette tutti d'accordo. Sono sempre più insistenti le voci che danno Romano Prodi in pole position per la candidatura a sindaco di Bologna. Oggi in città arriva anche il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani, che nel corso della giornata dovrebbe incontrare il professore per chiedergli personalmente di ritornare nell'agone politico e correre per la poltrona di sindaco. Una richiesta pienamente condivisa e sostenuta anche dalla dirigenza bolognese del partito, che per bocca del suo segretario Andrea De Maria definisce quella di Romano Prodi una candidatura forte di un uomo carismatico e oltretutto bolognese. Cofferati e Del Bono, gli ultimi due sindaci di Bologna, non erano infatti originari del capoluogo. Dal canto suo, Prodi, raggiunto telefonicamente da Radio 24, ha confermato di essere felice ed onorato del pressing che la città sta facendo su di lui affinché accetti di candidarsi, ma ha ricordato che queste sono cose che passano. Se sarà come afferma il professore, se la sua candidatura dovesse essere solo una boutade, potrebbe già scoprirsi in serata dopo la direzione del partito alla quale prenderà parte Bersani e da cui molto probabilmente arriverà il nome del candidato del PD. Poche ore ancora e il nodo verrà sciolto. Deborah Dirani, GR24, Il Sole 24 Ore, Bologna. Il centro-sinistra continua ad essere diviso sul nome di Vincenzo De Luca, il candidato del Partito Democratico alla presidenza della Regione Campania. Italia dei Valori, Sinistra e Libertà e Federazione di Sinistra bocciano l'attuale sindaco di Salerno e all'interno dello stesso PD la componente bassoliniana mantiene un certo distacco. Per il segretario Enzo Amendi, De Luca è un punto fermo, d'accordo con lui Verdi e Api, il partito di Rutelli, ma Di Pietro insiste, è inaccettabile, dice, perché non rappresenta la discontinuità. Se il PD non fa marcia indietro, Italia dei Valori è pronta a fare un proprio nome. E tornano in piedi le ipotesi dei rettori Guido Trombetti e Raimondo Pasquino e dei magistrati Cantone e Maggi, questi ultimi molto graditi all'ex PM di Mani Pulite, che potrebbe addirittura scendere in campo in prima persona. Per le altre anime del centro-sinistra, l'unità potrebbe essere trovata anche sul nome dello stesso segretario del PD, Amendola, o su una figura equidistante da Bassolino e De Luca, come l'attuale sindaco di Ercolano, Nino Daniele. Insomma, sul candidato da opporre a Stefano Caldoro del PDL, la partita è ancora tutta aperta. Del resto, per formalizzare le candidature c'è tempo fino al 28 febbraio. Lo sa bene Pierluigi Bersani, che invita gli alleati ad abbassare i toni dello scontro, lasciando a De Luca il tempo per provare ad allargare la coalizione. Il segretario non perde occasione per sottolineare che il PD non accetta veti e che resta valido il metodo preteso in Puglia da Vendola. Se la sinistra non è d'accordo sulle scelte fatte, si misuri con un proprio candidato. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Le 13:17, ancora una buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato del sequestro Abu Omar. Oggi sono state diffuse le motivazioni della sentenza. Il giudice ha detto il Sismi sapeva. Rivelazioni importanti anche da Palermo, dove Ciancimino al processo Mori ha detto Provenzano aveva l'immunità. Abbiamo parlato di lavoro, lavoro che non c'è, Termini Imerese, ripresa la produzione, ma è una settimana di incontri sui vari fronti aperti. E poi c'è una buona notizia che riguarda i mutui, oggi scatta la moratoria. Tra pochissimo parliamo anche dell'Italia al gelo, temperature ancora giù. Ma subito in primo piano adesso ci spostiamo in Israele, dove oggi, proprio tra pochissimo, dovrebbe arrivare il premier Berlusconi per iniziare la sua 3 giorni di visita. Relazioni economiche, ma anche la politica degli insediamenti al centro degli incontri. Ne parliamo in diretta con Ugo Tramballi. Ugo. Sì, buongiorno. Evidentemente l'economia è il centro della visita del governo, di Berlusconi e dell'intero governo. L'economia, tradizionalmente abbiamo solidi rapporti con Israele, ma rapporti che possono ancora essere molto migliorati, soprattutto sul piano tecnologico. C'è una commessa milionaria di aerei armacchi da addestramento che dovremmo convincere gli israeliani ad acquistare, cioè, abbiamo come concorrenti fortissimi sudcoreani, ma cosa più importante e nuova secondo me è il fatto che adesso abbiamo anche un ruolo politico, noi siamo i migliori amici europei di Israele. E Israele va convinta, come chiede Barack Obama, a ritornare sul processo di pace, va convinta anche a rivedere la sua posizione rispetto agli insediamenti ebraici nei territori occupati palestinesi. Il nostro ruolo è questo, naturalmente noi non possiamo pensare di avere noi un nostro piano di pace, non ha questo ruolo, però sicuramente come amici degli israeliani e avendo anche buoni rapporti con i palestinesi, potremmo anche cercare di fare, come dire, un lavoro di sponda a favore del tentativo dell'amministrazione Obama di respingere i due nemici al tavolo della trattativa. Ugo, dunque, è sicuramente un incontro importante, lo dimostra il fatto, l'hai detto anche tu, che c'è quasi mezzo governo con Berlusconi. Sì, questo è un bilaterale pieno, si prevedeva ci fossero anche rapporti economici più stretti, doveva probabilmente andare in Israele anche una delegazione della Confindustria più ampia, però in realtà i rapporti economici con Israele sono già molto buoni, solo su alcuni settori specifici, come dicevo prima, magari soprattutto la tecnologia, vanno un po' perfezionati. Bisogna fare lobbying appunto su una commessa molto, che sarebbe molto importante per la nostra industria aeronautica e militare. Però insomma non era necessario forse una grande visita come spesso per esempio il sistema paese italiano fa, andando finalmente dopo tanti anni di attesa facendo questo mix di governo e Confindustria. Direi che forse l'elemento più importante di questa visita è nuovo è proprio il processo, il ruolo che l'Italia può avere nel processo di pace, ripeto, non un ruolo originale, nuovo e diverso, ma un ruolo di sponda, anche perché è la prima volta che un governo Berlusconi, anche quelli precedenti sono sempre stati molto molto vicini a Israele, è la prima volta che un governo Berlusconi indica all'amico israeliano: guardate che sugli insediamenti state notevolmente sbagliando. Grazie ad Ugo Tramballi per questa analisi. Intanto Berlusconi, come dicevamo, è proprio atterrato in questi minuti a Tel Aviv. E noi restiamo all'estero, ma ci spostiamo in Iraq, dove è di almeno di 41 pellegrini sciiti uccisi il bilancio dell'attentato suicida compiuto questa mattina vicino Baghdad da una donna kamikaze che si è fatta saltare in aria in mezzo ad una folla di pellegrini in processione verso Kerbala. Secondo il nuovo bilancio fornito dal Ministero dell'Interno, i feriti sarebbero almeno 106. E torniamo in Italia adesso con il maltempo. Freddo e neve su gran parte d'Italia nei giorni per tradizione più gelidi dell'anno. Temperature in forte calo in tutta la penisola almeno fino a mercoledì, soprattutto nelle zone centrali del paese. La notte scorsa si sono registrati meno 28 gradi nel Vicentino, nella piana di Marcesina, chiamata non a caso la Finlandia d'Italia, meno 22 ad Asiago e meno 18 in diverse località del Cadore nel Bellunese. Tornata regolare invece la situazione della viabilità al termine delle abbondanti nevicate che nella giornata di ieri hanno interessato in particolare le Marche. Per tre ore infatti circa 2.000 automobilisti sono rimasti bloccati lungo la A14 tra Fano e Pesaro. E l'aeroporto di Ancona Falconara, che era stato chiuso verso le 8 di stamani per il ghiaccio in pista, è stato riaperto al traffico poco prima delle 11. Chiuse le scuole a Pesaro, Fano e Sirolo. Al sud piogge abbondanti in Calabria, dove si registra lo stato d'allerta per le piene dei fiumi, in particolare nel Cosentino, e in Sicilia. Sempre in Sicilia i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi hanno salvato stamani un uomo e una donna di Siracusa di 38 e 37 anni che hanno trascorso la notte nel loro fuoristrada bloccato dalla neve sull'Etna. Per raggiungerli i soccorritori hanno dovuto utilizzare gli sci. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. E sul fronte smog torniamo a Milano dopo il provvedimento di stop al traffico adottato ieri. Le polemiche sulla reale efficacia del blocco del traffico di ieri si sono sprecate. Un indicatore delle perplessità è stata la mancata adesione, unica eccezione Legnano, dei comuni della provincia. Ma forse soprattutto per un rafforzamento dei venti, da ieri Milano è meno inquinata. Dopo 20 giorni le centraline hanno registrato un livello di PM10 nell'aria tollerabile, 38 microgrammi per metro cubo, quindi sotto il livello di guardia che è di 50 microgrammi. E tutto sommato, i milanesi ieri hanno dimostrato di poter fare a meno delle auto. Gli utenti della metropolitana sono stati il 36% in più rispetto ad una domenica tradizionale, addirittura il 400% in più coloro che hanno noleggiato una bici attraverso il servizio di bike sharing del comune. Tra gli automobilisti in circolazione fermati, oltre 4.000, circa uno su sei è risultato abusivo e quindi multato dalle pattuglie della polizia locale. Resta confermato per oggi e domani il pagamento dell'EcoPass in città anche per i veicoli diesel Euro 4 senza filtri e per gli Euro 5 commerciali. Domenica piedi anche per altre città lombarde. A Monza le polveri sottili sono tornate sotto il livello di guardia con 47 microgrammi per metro cubo, ancor meglio Lodi dove il livello di PM10 si è attestato sui 34 microgrammi. Meno fortunate Brescia e Bergamo. A loro il vento e il blocco delle auto non sono bastati, entrambe superano ancora il limite di legge di 10 microgrammi per metro cubo Bergamo, di 8 la città di Brescia. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. E all'iniziativa lombarda era dedicato il nostro sondaggio di oggi. Il blocco del traffico a Milano per far fronte all'emergenza smog è stato positivo, secondo il governatore della Lombardia Formigoni. La decisione, seppure temporanea, è stata promossa anche dai nostri ascoltatori. Il 65% degli oltre 2.000 voti arrivati nel nostro sondaggio sono stati oggi per il sì. È stato un provvedimento giusto. Chi è arrabbiato è il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, che annuncia: denunceremo tutti gli amministratori inermi sul fronte antismog, e poi lancia una proposta. Si parla molto di buoni pasto nei contratti di lavoro, no? Ebbene, io penso che in una trattativa, in un contratto di lavoro, deve entrare a pieno titolo, gratuito per il lavoratore, l'abbonamento ai trasporti. Bianconero torna domattina alle 8.30 per votare. Radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Salvo colpi di scena, l'uomo non tornerà sulla Luna entro il 2020. La NASA sarà finanziata solo con 6 miliardi di dollari per i prossimi 5 anni. È uno dei risultati del primo bilancio americano congelato che il presidente Barack Obama presenterà oggi, del quale parleremo, vi ricordo, alle 13.45 in America 24. Sceneggiatori e cantautori, intanto, da tempo non si ispirano più alle imprese spaziali. Eppure, fino a qualche anno fa, il problema si è posto proprio nella notte del 20 luglio 1969. Quella stessa notte Lello Bersani sulla Rai, negli intervalli della lunga diretta televisiva con Houston, già ne parlava. Gli astronauti hanno atterrato sulla Luna, come la mettiamo? Con le canzoni che hanno parlato fino ad oggi della Luna, da Blue Moon in poi o prima. E quindi bisogna rivedere tutto il problema. La Luna non era più un misterioso riferimento poetico, ma un obiettivo da raggiungere. Questo qui è un complesso spaziale, questo va sulla Luna! Ma prima di andare sulla Luna non potreste fare un mese qui da me? 20 giorni! Persino per Peppino De Filippo, impresario pasticcione dei Motowns, in Soldati e Capelloni. Ovviamente tutto questo non riguardava solo l'Italia, anzi, due riferimenti precisi all'avventura nell'uomo dello spazio e al primo storico passo sulla Luna. This is ground control to Major Tom. Space Oddity di David Bowie, che poi confermerà il suo interesse per lo spazio in Starman e Life on Mars. Secondo riferimento, Armstrong, Aldrin e Collins, inseriti dai Byrds nell'album Ballad of Easy Rider. Dici che ce l'ha fatta? Sì, sì, ce l'ha fatta. Fly me to the moon. Per la scena finale di Space Cowboys qualche anno fa, Clint Eastwood si è affidato a Fly Me to the Moon. Per un po' sarà l'immagine definitiva e torneremo a sognare una luna lontana e irraggiungibile. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Calcio, l'allenatore del Cagliari, Massimiliano Allegri, ha vinto la panchina d'oro come miglior tecnico della Serie A per la stagione 2008-2009. Il premio è istituito dal settore tecnico della Federcalcio e a votare sono gli stessi allenatori. E intanto sembra un'impresa per Zaccheroni risollevare la Juve in questo momento difficile per la squadra bianconera, ma anche dopo il pareggio contro la Lazio di ieri lui è fiducioso. Ragazzi rammaricati, impauriti, arrabbiati, ma con tanta voglia di giocare. È da qui che ammette di voler ripartire Alberto Zaccheroni. L'esordio contro la Lazio non è stato dei migliori, nuovo allenatore, vecchi risultati. Rispetto alla Juve di Ferrara questa è riuscita a non perdere, ma l'uno pari di ieri si legge comunque rimonta, subita. Esattamente come quella di sabato scorso contro la Roma, la gara che aveva segnato il capolinea per Ciro Ferrara. Sembra dura per Zac, ma lui è fiducioso. Ho pensato più che altro a quello che agli errori che abbiamo commesso. A quello che è mancato sia quando avevamo la palla che quando non avevamo la palla. Io cercherò di fare il mio, credo in questo organico, credo che abbia delle risorse non ancora evidenziate, credo che da adesso in avanti vedrete una squadra in crescita. Il vice direttore generale bianconero Bettega è ottimista, ho visto progressi, dice dopo la partita. Sapevamo che Zaccheroni non poteva avere la bacchetta magica e intanto la società sembra smentire dei contatti con l'allenatore del Liverpool Benitez, legato ad un lungo contratto con la squadra inglese. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione, grazie in regia Fabio Cantadori. Vi lascio in compagnia di Daniele Biacchessi con Italia in controluce. Il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.